attimo, chi siete in questo PMRR? Belli bei! Ciucucciù! Senti di gruppo! Tutti morti, ancora ubriachi siete, Io ti giù! Ti è piaciuto il ciucciamento, ciuccia ciuccia! Io ti giù, vai! Ciuccia ciuccia! Ehi, ti giù! Ciuccia ciuccia, ciuccetto! Non ci vuoi più gruppo a noi! Ciucciata a me! Aspetta, che ho fatto una cosa! Benissimo! Gufo dritto! Ehi, a dritto sogno! Gufo dritto è bevuto un whisky! Gufo dritto c'ha il dritto con Gesù Cristo! E Gianni Maria, in bicicletta! Gianni Maria l'ho visto lì a Pasqua con la bicicletta infrennando, in due erano! E chi c'era? Tore con lui! No, Bacchisio! Bacchisio, come ci avrà più? E allora? Una mano era mi pennando, tutto all'accelerata! E questi bisogni, Chi sta di lì? Ehi, aspetta che ci sta! E peggio di Mari, pennando sappi! Beh, sbagliato chi si... Ti ci va da dirai. E cosa? Dopo tutta la sera ai lupi. Ma vero quella roba te che me lo detto, ci che il gusto. E allora, un peli. E di la verità, ti fa chiaccia il viso, ya. Tutto mezzo, mezzo, i sottagliato, i ricatti in sabanca, cazzo. E allora, no, non è per me, no. È bello. Ciao Marie, corta i dami. Mamma ha dato la fotografia che è embriaco. Acqua, sette fuente, fria. Bebe. Tutto te l'hai mangiato l'agnolo e il bocchiccio. Oh, la riporto una buccia a farsi da rugani. La medaglia l'ha giù fatto, in capoeira mi viene arrivato la medaglia. Beh. Poi c'è Malluca, no? Poi c'è Malluca, è stato aggiudato, la macchina fino era passato. Il polpo già me l'ho mangiato, Agnoni non ha giuducato nulla, io non ne mangio. La Luca se non la mangi tu. Andalo. Certo, vuoi ti aiuto a invitarmi, non mi ha mai invitato. Cosa? Giù maedo, preferisce buttarlo invece di darlo a me. Cioè invece di invitare a me, no, a darlo. Non è voglio se me lo dà, non ne prendo neanche. Se mi invita che è, me lo mangio. Ma purtroppo oramai l'ho messo per darlo al cane. No, non sei massai di là di baraggarli, no? L'altro già c'è uscito, carne vabbè, un pezzettino ce n'è rimasto, noi l'ha già messo Agnoni, un pezzo è rimasto un paro. È paro 31, riparendisi. Per il 31 c'è pesce, c'è porcetto, il porcetto vedi, un pezzo di cugione a me lo mangio, un pezzaretto. Santa Giomali, Lo polpo che me l'ha già mangiato, è insalata col sughetto, buona reggia, e mi è rimasto un po' con le segame, piccolo ho messo il frigorifero di quella insalata, da lui ti penso che secchia, chi ci è lavoro, come ti piace a me, frutti, un burro. Santa Giomali, bubu. Io sono Mario. Avvio, ove mai, oh. Sto sul buco, le pere, e ne ha dato il suo vicino, cazzo. adesso che gli avessi una voce, ragazzi. Tutto questo si può mangiare e poi l'hanno mangiato da manco. La bolpa di cracchi si l'hanno mangiata tutta, ce n'era un tegame grande grande, tutta bella accoglita, tutto retto, sì. E solo questo d'agnello è rimasto, però oggi tutto è maroccano, il bovarino e l'andare burbaetti. Ma che sei grasso, cazzo? Ragazzi, si, come si chiama? Un ragnolo, dici, avrà fede, cazzo, che sei grasso. Adesso che andate lui. Grazie, stai dicendo Marina, come hai fatto la polpa di granchio? Se lo vuole sapere, diglielo. No, non l'ho preparata io, l'ha preparata mia figlia. Debra, tu l'hai fatto la polpa di granchio? Ah no, Giussi l'ha fatta, quella che abitava lì Fusi. Vabbè, cosa ce l'hai messo? Ci ha messo, io ho visto cipolline, cosa ci ha messo in mezzo? Non ho mangiato, io non li mangio. Dai, cosa ci ha messo in mezzo? Cipolline, sedano ci ha messo, e poi boh, io l'ho visto così. Ma qua la paglia è una roba che non mangio. Quando non mi piace, non mi piace. I gamberi ci sono usciti, due teglie grandi, di quelle in alluminio. Chi si è sono usciti? No, un giorno ne è rimasto e se l'ha giampato. Ho capito. Vabbè, noi la facciamo normale, dai. Tagli e prezzemolo, un po' di olio d'oliva, di quello buono. C'è buona lo stesso. Anche lì ci mette l'olio d'oliva, l'olio che gli avevo dato io, di campagna, gli ha messo quello, perché quella l'ha portata già pronta, l'ha portata mia figlia. E la dice, non va a me, a chi sta e io non rimango, mamma gioia a noi che ne mangiasse la sua già è blu, non è che gli piace neanche a poi, se la mangia ma poco. E infatti si stava a rimanere vera ancora e poi già se l'hanno mangiata tra pranzo e cena. Hai compreso Gio Marino che si tratta di mangiare altro che? Adesso a Capodanno facciamo il porcetto, orate, anguille, quei granchioni grandi e poi non lo so, non lo ricordo cosa c'è. Ah, la corda c'era, quella tutta imburigata. Cos'è? La corazzella? Sì, corazzella. Gio Marì. Tu mi so che sentendi. La corazzella pure si è mangiata, hai sentito? La sento tu. Ehi, a chi se li ha mangiata? È fatto bene, grazie. Buona era, ne è pigliata. Ora, insieme all'agnello, Paoletta l'ha preso, non lo so dove l'ha preso. Vabbè, comunque già era buona, là. Buono, la cordola si chiama, perché sta gli ammibbiati? L'ha fatta Paoletta, l'ha tutta preparata, con quel bastoncino, l'ha infilato tutto, l'ha messo il condimento, mi pare agli prezzemolo, non ne faccio mai io a chi noi i materiali, se da vaginare con questo gliela faccio. Poi gli ha messo quella retina, insomma già era buona. Ho capito, meglio così, dai. No, noi ci mangiamo leggeri, là. Faremo qualche gambero così. Poi il pollo con le patate, che è buonissimo. E poi antipasti. Antipasti via, parmigiano a pizza. Affetto, salsiccia, salamini, sottacetti, e davvero salsiccia. Adesso non lo ricordo cosa c'è. Poi già ce n'era la magna, ma pancetta pure c'era, la pancetta di quella bruciata. Già veniva roba, ma... ma noi io mangio assai cosa mi ha fatto assai, io oggi mangiato normale di tutti. Sì. Siccome sei vivo più a brincarti, va, più a girarti intorno che a brincarti. Mi quello con la crema dentro e due bicchierini di sfumante, quei calici lunghi, fini fini. Mi dici, se li voglio una tazza di vanno invece una tazza di vanno. Ma ci può? Però prima di entrare devi far mettere una quota, c'è la tangente, o metti un panettone, uno sfumante, oppure 100 euro, vero Luca? Allora, ciao Bacchi, buonasera, avanti. Ciao Luca, buonasera anche a Graziano. Allora Graziano non 100 euro, ma 200 euro si sta zitto. Ok, mi sembra sia che Gio Maria. No, mi serve un controllo il 27, se c'è Gio Maria, avanti. Gio Maria si è assentato un attimo, aspetta quando rientra. Se non controllo te lo do io, parla. 27 però mi, grazie. No, il 28 c'ho, cioè 27 non ce l'ho acceso. C'ha il 28 acceso, Luca, smetti la lenta questo Graziano. Che tu sei più vicino di me, cerca di metterlo in riga. Picchialo, Bacchi, picchialo. E non mangiare, Luca, ma sto trabaggiando. A perché ti mangi mangiato una caramella a me, ti ha messo giù un cuccio, anzuca. Non mangiare, Graziano, ti mangi male, ingrassi troppo, dopo ti vuoi fare a fare i cali. No, una caramella all'anice, mi ha fatto andare in bagno, due volte. Allora è la stativa, raga. Però Luca te l'ha data, e poi se caramelle ti ho dato Luca. Oh Luca! Oh dimmi, stavo mangiando due forze, dimmi. Oh, e anche le castagne c'erano. Oh, fatte arrosto nel coso, nel tarame. Venera che mangia, Bacchi, ma lì si viene in moto, impara Gio Maria e Fernando in via Pascoli, così grazie, giusto. Ma io sto senza sentire, attore squalo più di una settimana. Noi ci ha mangiato un zurico, no? A me mi pare che se la mangiato un cane zurico, ma te. Non li da a mangiare, lo credo, mi si è cazzato e l'ha tutto un assaggino, ne l'ha trattato un capo. Capisco che è la cosa, è proprio ginnica con questo cane. Non l'ha da mangiare, sino dopo si ingrassa e non fai passare gli anni. E allora si ha mangiato Edo, visto, poverino. E di mangiare a venire, un po' conosci, vero, le mani, già erano tutti casi. Ma quella fammi che va via va la trippellato canto è Luca, vero? E allora, ha trippellato voci. Da lupa lì a Cossuine, c'è ancora più molto del fammi. Riprendi tu Luca che vado in ufficio, chi c'ha caramella mi ha fuggito. Sì, va bene. Bene, tu, cosa ti ha fatto male? Non è la caramella, ma che ci sei mangiato a pranzo. O male hai mangiato qualcosa che non puoi mangiare, gonfiarito sì. A me mi accusa di caramella, che c'era la caramella alla stativa, e dunque era apposta la moglie, hanno fatto mangiare. E allora, paghi su, allora. Fanno toccare nulla, se mangiando di tutto. Ma non c'è di nulla, se mangiando di tutto, se mangiando. Oh, iaia, per carità. Mi dice anche Gio Maria, ma si è assentato. Mia c***o, ma le panettone. Bene, mi sto mangiando panettone. Bene, mi stai ascoltando, sì? Di lusso, Luca. Ok, dai. Anda bene, ecco. E allora, Capodanno, il 31, qualcosa hai organizzato? No, finora niente. Non ho organizzato niente, vediamo l'ultimo momento dove mi si sbatte la festa. Ah, noi già non facciamo niente, non ve ne gana. Non c'è la fantasia di fare niente, per me, perlomeno per me. E cosa fai? Per me mi sembra sia un giorno come gli altri. Ah, ma infatti. Come andare in piazza a vedere un po'. A vedere? Ma c'è di bello in piazza, come fanno quest'anno? Ah, mi sa che non c'è niente quest'anno, no? L'anno scorso c'era Piero Pelù, quest'anno lo so, ma non credo, credo che non facciano niente comunque. Dipendo, stiamo sempre migliorando sta storia. Infatti, andando migliorando, per carità. Ma non ti credo che lì al centro ci siano luci e controluci? Nada, poca roba, niente, quasi niente. Perché ci hanno mangiato i soldi, capito, Bacchi? Il comune di Sassari è povero e dunque niente da fare. Ma se ne mangiato di là, cosa? Quindi adesso hanno nuovo, già ci mettono un po' di tasse, così se ne fanno per i quattro spiccioli che hanno preso. Ma infatti. Graziano è tornato, sì, dal punto di capitolino. Graziano per 40, non è più lui da là. Bisogna andare a recuperarlo. Invece è separato, altro che... Recuperare. Giovanni è per fare tutto, finito vai. Cosa va più un attimo, mi aspetta. Io non vai più da sopra. Vai! Graziano, ci è arrivato. Eia! Già tre volte mi sono entrato, roba da macchina. Fammi mi pare per la porca tua, ma non te l'ho mangiato una caramella. No, oggi ho fatto polenta con la salsiccia. Ah, la polenta, vediamo, fa lì su e si vede manina. La polenta fa l'effetto. Ma cosa, l'ho sempre mangiata, non mi ha fatto mai nulla. Era truccata, era un lattativo. E allora, è di chi da grossa pure lui, la buona regia. Un piatto di sana giovaniata è ma peggio che ha sentato. Ah, vai nel corso, sei conseguente. E già c'è l'ufficio, c'è qua dietro. Fa un buco di la cucina, grazie, che ci sia fuori la cucina, fa un buco e passa direttamente dentro. Cosa hai detto? Dentro, a fare un buco nella parete della cucina, così passi dentro, senza uscire fuori. Aspetta, c'è un messaggio di Luca, pure il pente. Il teggio là. Intanto l'ho mandato Luca. Cosa? Ho capito, l'ho mandato un messaggio. Andare. Forse è dovuto andare nel cucina Capitolino. Te la sei, te ne rimbomba in te. Non è Luca però. Ehi, sei salato nel Piccolino, nell'ufficio Piccolino è il piano. Rimbomba già la morte. E allora, chissà chi ha detto a me, lei dove mi ha fatto compagnia, mi ha fatto. Sei aiuto, fai forza. E ma, a fine di già sopra. E allora, intendo un macchinario, date, ma che cosa funziona, vai? Il mio macchinario è un po' della radio, ma mi si vede che è a forte volume. Ah, che si intende? No, non volevo accendere stasera, però appunto stavo facendo cosa? A dire che là non accendo, no? La farò mettermi un po', vabbè, domani ti aggiudo un tempo, domani sera l'attacco, a 26. Adesso lo spento, adesso non si sente più nulla. No, oramai non attacco, devo andare in salone, pigliarla, regalle no, mi chiudi l'ufficio di l'antenna, via da reggere la televisione, pigliare l'alimentatore, io qui, domani la metto in funzione. Nel salone perché non funziona, grazie. Non mi piace a me attacco il salone, non me lo volevo mettere, però non ci sono abituato io a rimanere in salone. So che più bene e cucina mi piace. Beh, non mi è mai piaciuto, non vado mai in salone, ma che bello a me il televisore, a meno che non c'è mia genero, che allora mangiamo nel tavolo del salone, Allora io me la metto la televisione, se no ma come la fai giù in salone? Ma la guardo sempre in cucina. Beh, se c'è la comunità in cucina, va bene anche in cucina. Magari c'è anche più caldo del salone. No, caldo già c'è caldo, c'è la stufa lì all'ingresso, non te lo ricordo. Già c'è caldo, ma non mi piace, non mi ci trovo. Invece in cucina mi trovo più bene. Ma in cucina si deve mettere una mensola e metterlo sopra, dove il radiatore, si mette una mensola e glielo lasci lì, sia un alimentatore che la radio. E attaccare solo l'antenna e basta. Io ogni volta che schiavo di fare molti lavori. Ce l'avevo così, mi ha fatta buca a me moglie, non ce l'ho. Ce l'avevo la mensola lì e non ce l'avevo così. Solo che in cucina, lo sai cosa, posso con una radio vecchia. Nuova non è buona, come cucini con il vapore e tutto. Mi la crema subito. Ah no, col vapore della cucina lo rovina subito. Quello invece è buonissimo, voluto di mano. La dice qua, stava un cassonetto via. E infatti nuovi non ne ho mai messo qua in cucina, mettevo olino ricci, lo Zodiac, il Washington anche lo usavo in cucina qua, quello grande, anche quello, oppure nel terrazzo, nel terrazzo glielo posso mettere a estate, c'ho un mobile adesso lì, lo posso appoggiare, però in estate avanno andava, è troppo freddo. Se no, tutto il periodo estivo, anche di primavera, modulavo dalla veranda, si sta bene lo stesso, però in primavera e in estate, avanno andava. No, io mi preoccupo di tutta la soffitta, ed è tutta condensata in polistirolo, la soffitta. L'ho inventato per il cesso del radio. Ma c'è caldo, quando si rientra, si entra su questa e c'è caldo. Poi devo fare un 3 metri per andare alla porta del terrazzo, delle scale. E ti congerenza, e tu lo saranno, e mi rimarranno con la radio. Mi lancio qua tutto il Rai 9, e sto andando con l'antennino. No, così mi bisognerà, non mi ha nemmeno fare idea. No, quando usavo il riscaldamento a termosifoni, me lo usavo nel terrazzo anche d'inverno, perché ci ho messo un termosifone, capito? Dunque quando accendevo il termosifone mi scaldavo anche in terrazzo. Però adesso no, non ne uso più di quell'impianto lì e ho una stufa a pelle, hai capito? E che ha sbagliato, devi abbigliare chissà a idro, non ci ho pensato. E così facevo funzionare il termosifone. Vabbè. Infatti è quello. L'idro deve prendere, oppure quella all'aria calda, quei tubi dell'aria calda. Mi fai le bocchette nelle porte e entra con l'aria calda. Ma idro la volevo prendere dopo in seguito, però era troppo voluminosa, io la volevo mettere dove c'è la caldaia stesso, lì dietro nel terrazzo, ma mi prendeva tutto il passaggio in facciata, dalla parte di facciata non i muri e mi zaribili, perché io in estate metto il tavolo e mangio nella veranda, capito? Che si mangia più bene, abbasso la tenda, apro le finestre, ci sono le zanzariere e pranziamo lì. Quello è comodo, si può pranzare e cenare anche in estate, è sicuro. Ma mio, o ti prendi la caldaia o ti prendi la banca, uno dei due. Ma se va bene così, in inverno dentro casa e in primavera si è sul terrazzo. Buonasera. Infatti il vostro cucino, ma già ce l'ho la caldaia, se voglio la butto sempre a singhimi, funziona sempre, non è che non funziona. Prima ogni tanto la provavo per un paio di giorni, ci attaccavo una bombola, capì, e non va a funzionare, ma già funziona, è nuovo, è tutto nuovo. Quelli a gas, dirai, non a gasolio, a gas. No, a gas, a gas. Ma consumava troppo. Poi il bombolone manno si inizia a rischiare a sanni dai nostri. Quella da 25. All'inizio me li portavo su io, a chi? Non qui la mancasse solo all'epoca, qua. Il bombolaio mi dice, io te la porto e da giù ce la prendi su. Tu non ti narrigo, si la vuoi. Così mi dice, e allora me ne ha saputo. Capita, 50 kg sono, grazie. 50 kg da portare su, fa 4 piani e pesanti. Buonasera. Prima me la portavo su io, me ne troncava l'arca, a canta nocchi, a canta arrivi a rubiare il nostro mio, va via, l'ugore in bocca. Penso a Calabria diventavo. Capita, adesso me ne troncava l'arca. Buonasera. A Trubiano sta una tirata a pesanti, capita. 50 kg al fare, non saranno. No, è arrivato in osso. Buonasera. Tutta una tirata vazia, dalla strada me la punia in alta. Sì. E beh, siamo giusti. La cucca, e fada. Come intende? Come va la cosa di lui? Tirata, pensava in tata lì. Ma sempre la tua legge, sta male. Fa farà venire. Ma boh. Le bustine, la riccia, ma ti no. Tutto a posto, sì. Sì, tutto a posto. Grazie, ma sono Giussi. Ciao Giulio, non ti ho sentito. Siamo qua solo da far vedere i nobili con Marino. Manca Marino, hai inteso. Ciao Bacchisio. Vai Marino. Buonasera a tutti, ciao Bacchisio, c'è anche Graziano. Anche se ti sento mezzo disturbato, grazie, ma da sei proprio, hai bevuto troppo in questi giorni. Benissimo, avanti Bacchisio. Ehi, ciao Marino, buonasera, ben ascoltato. Ciao Giulio, buonasera anche per te. No, non l'avevo sentito io, va bene, andavamo a ping pong con Giulio, con Graziano, non c'era Bianco. Avanti ancora Giulio. Ok, ciao Bacchi. vabbè, stavamo facendo questo a parte noi, voi due lì e noi due qua. E per cui, che problemi vi sono? Andava bene Matteo. beh, grazie, aiuto, racconta, che tu dove hai mangiato di Borsetto, non dice lì? No, niente Borsetto, l'agnello ho fatto, però io non ho mangiato nulla. Solo la coratella già me l'ho mangiata, il polpo mi ho mangiato, però agnello niente, nulla di nulla. E già ce n'è la roba di mangiare, però niente, no, non ne mangio più che mi fa male. E hai fatto bene a trattenerti, così ne ha passato di più per gli altri, hai fatto bene. E vabbè. Grazie, ma figurati, oggi non ci possiamo più riempire la pancia come una volta, come quando eravamo ragazzi. Perché? Perché mangiare ce l'abbiamo tutti i santissimi giorni, mangiamo bene tutti i giorni, per cui anche in questi giorni di Natale non la tira più come tanti anni fa. È così io la penso. Vai Marino. Marino! Scusate, un attimino mi stavo chiamando al telefono, scusate, riprendi giù, scusa. Ah, il telefono sì, ho capito. Sì, riprendi tu allora, Bacchisio, vai. Giulio, poi mi dai il coso, la 26 acceso ce l'hai. Sì, acceso, sempre tutto acceso qua. Qui la sera, sempre, dalle 4 in poi è sempre tutto acceso. È tutto, anche l'albero di Natale è acceso, tutto quanto. Ciao Giulio. Controllo il 26 adesso, come sto uscendo con il campo. Vediamo un po'. Va bene, dai, canta, prova a cantare, dai. Vediamo un po' se ti sento bene, vai. Ciao Giulio. Ciao Luca. Dammi sentito, mi ascolto disturbati, boh, un rumore sotto. Aspetta Luca un attimo. Aspetta un attimo che sta controllando il controllo a Bacchisio. Sta controllando il controllo a Bacchisio? E dove? Ehi, nella 27. Che vero? Ehi, Luca non si è sentito, no? Ma in bagno pure tu eri in ufficio? Ma io no, sono qua. Se ma chi già mi ha trovato in ufficio? No, oh, sono andato un attimino in cucina. Ah, piccolità, via. No, cosa piccolità, ma cosa piccolità, mica mi chiamo Graziano, mi. E ogni tanto faccio pio e becchi a destra e a sinistra. Che è vero? Luca mi ha mandato che sta cubicando poco fa. Oh, non ti compresi cosa hai da fuori? Ebbene, grazie, siamo tornati, Ah, tornati siete, anche Marino. Marino era al telefono, Luca. Ehi, mi senti Giulio? Sì che ti sento, senti, ho risposto anche poco fa. Io ti ascolto un po' di sottofondo, dai, buh. Sono tratto. Non so cosa dirti, cosa vuoi che ti dica. Purtroppo questa frequenza è così, prova a spostarti un attimino, perché io sono nella posizione giusta. Come ti senti, grazie? Io sono tratto. Al momento è basso, Giulio, al momento è benissimo, proprio limpida la voce. Avanti, grazie. Ehi, è Marino sempre al telefono. Sono entrato, ciao Luca, ben sentito, grazie. Anche a te ti siete un po' disturbato, comunque salato i gabberoni che hai mangiato. No, io negativo, agnello, non ne posso mangiare, ho mangiato un gabberone e un pezzo di porcetto, tutto qua. Avanti, va chi? Marino! Marino, hai ragione. Adesso che ci sei anche tu, poi mi dai un controllo invece sette, Marino, se sto andando bene o sto andando male. La mia è tutto acceso, io quando accendo questa accendo anche la 27, quando vuoi fischia, avanti di nuovo e fa girare. Io un po', Mario, mi senti? Certo che ti sento, l'altro giorno ti sentivo, oggi ti sento, un po', anzi, forse troppo forte sta arrivando, un po' la modulazione, un po' distorta, ma già ti ascolto, dai. Vabbè, che tu già arrivi bene, dai, prima non ti sentivo per niente. Arrivi abbastanza bene, con un po' di sottofondo, di QRM, comunque ti ascolta. Avanti, grazie. No, volevo chiedergli a Marino una cosa. Marino, a me senti? Marino, lo senti Graziano? Graziano, in questo passaggio a tratti l'ho sentito, Anche lui bisogna rimanga fermo, perché se inizia a muoversi, sa la frequenza quella che è. Purtroppo, a te ti ascolto bene adesso. A Bacchisio, vabbè, Giulio, siamo vicini, Bacchisio, idem. A Graziano, mezzo. Avanti, Graziano. Non ti muove, rimani seduto e lascia il panettone dov'è. Ma mi senti così? Adesso sei un amore, Graziano. Sei un amore adesso. Ascolta, ti volevo dire, non è che me le procuri due ruotelle di quei cassonetti fuori uso. Le ruote, due me ne servono. Le cassoni della Mondetta, di quelli fuori uso. E adesso domani mattina metto a fuoco un cassonetto e poi te lo dai, non preoccupare, già ci sentiamo. Lascia un po' di questo periodo, dopo già ci sentiamo, grazie, non preoccuparti. Avanti. Eia, riprenditi che vado in ufficio, torna, Questi sono i gamberoni miei, boh, avanti giù. Ok, vabbè, adesso bene sto uscendo, perché mi è caduto per terra, l'altro giorno mi è caduto per terra questo coso, e dunque forse è diventato difettoso. Come mi stai ascoltando tu, Mario? Boh, Giulio, sempre bene io ti ascolto, sempre bene. Allora dipende da loro che sono in una zona poco buona, diciamo, dai. Perché alle volte magari anche loro comunque mi arrivavano tutti quanti bruciati sotto. Luca, ci sei ancora? Tu come mi ascolti? Basso? Male? Come mi ascolti? No, già ti ascolto forte, solo che hai leggermente di QRM sotto, ma basso però, QRM basso. Per cui, no, siccome mi è caduto l'altro giorno, mi si è attaccato il filo, c'erano le cuffie, stavo usando le cuffie, mi sono alzato e avevo le cuffie che si erano legate alla gamba, non me ne racconto. E allora mi è caduto per terra, infatti il frequenzimetro non funziona più. E accende il quadro, però non c'è più il frequenzimetro. Praticamente se lo devo lamparmi, in poche parole. E me ne devo comprare un altro nuovo. Ecco qua il discorso, Luca. Fatto un regalo a Gesù Bambino, Giulio. E che modello è? È GT T3 mi pare, sapete? Aspetta che lo leggo. Allora, GT3TP. È quello al mio, è quello al mio. Non si può fare niente, ma è rotto proprio. No, non è rotto, è sparito il numero della frequenza. Prima c'erano le frequenze scritte e adesso non c'è più. Sì, vabbè, già si può aprire e controllare giù, non è che avevo diploma, Basta aprirlo, ma si è spostato, c'è qualcosa che dà contatto alla, al display, ma si è spostato, da colpo che ha preso, capito? Sì, è probabile che è così, o si è interrotto magari qualche collegamento, che cosa ne so, comunque, va adesso, meglio Baedo, no, non mi arrabbia, già ne ho anche un altro, ma questo mi piace di più. Sì, e beh, quelli vanno bene, dai. Vanno abbastanza bene. Vabbè, avanti Marino. Beh, com'è? Ci ha mangiato la tredicesima, dirai. Non si è arrivato il canno. Non c'è Marino. Sarà di nuovo il telefono, per cui... Sai cos'è, Luca? È importante avere la, il quadro acceso, cioè la frequenzimetro acceso, perché se devo fare un altro canale, se devo digitare un altro canale, non so se funziona, ma suppongo di sì. Poi c'è ancora un altro particolare, siccome questo va da 1 mi sembra a 8, 1, 5, 8, e quando tocchi il tasto non so quale è 1, quale 5, quale 8, capito, Luca? Lo so, sei fastidioso, ma basta fare una prova, smontarlo e vedi un po' se non si funziona. Se si spacca il filo si è fregato, però se magari si è spostato, per smontarlo e fare le prove. Infatti, no, siccome ci vuole un cacciavite particolare, di quegli inserti tipo stella, dai, ce l'ho in bottega, ce l'ho qua, non ne ho. Di quelle cose lì, ho la serie di quelle specie di cacciavite a tipo stella, non mi ricordo come si chiamano quel sistema. Mari, come si chiama quel sistema di inserti, e non quelli a croce, no, gli altri, quelli tipo esagonali? Le vele francesi sono, si chiama chiavitosso, diciamo, là. Chiavitosso, ma ce li ho io se vuoi giù, non ci sono problemi. Tanto già ne ho qualcuno in più, te lo do e non c'è problema, ci vediamo, te li do. Se no vai dai cinesi, con te lo te ne esci, ti dai, tu prendi tutta la confezione, ci sono cacciavite a taglio, dal più piccolo al leggermente più grande, poi cacciavite a stella, dal più piccolo e grande, sono due, no? E poi tutto il resto è tutto torso. No, già ce li ho in bottega, ho gli inserti di ogni tipo, ma qui non ne ho. Sono intercambiabili, quello che io sono, ho il cacciavite e ci metto l'inserto e funziona tranquillamente, sempre con il solito cacciavite, tutti i tipi di vite posso avvitare e svitare, per cui già ce li ho, ma ce li ho sempre in bottega e non mi ricordo mai a prendere, a portarmeli qua. Questa è una cosa che non voglio fare qua, non mi metto in bottega a cercare di riparare il display, no? Non mi interessa niente. Se no, una trentina di euro lo dovevo comprare, non se ne vuole da più. A proposito, ho comprato te l'hai il coso, il bollettino. Poi ti andrà giù tempo, a voglia, ma lo faccio il primo di gennaio, ma lo pago il primo, non mi interessa. Il primo di gennaio comunque. Ma la bottega l'avevi messa a posto poi Giulio? Sì, ce l'ho sempre, no? Ce l'ho sempre, metà ho fatto. Metà bottega e metà ufficio. Cioè ho fatto un tramezzo, una porta scorrevole e tutto. La parte davanti è ufficio, la parte dentro ho tutta l'attrezzatura ancora, che posso sempre usarla perché ho tutto, corrente, ho tutto, no? Dunque se devo farmi qualche cosettina per casa me la posso fare sempre, non è che non la posso fare. Però non mi interessa più di tanto, ormai è tutto ufficio, fin quando non riesco a buttare fuori le macchine, una volta che butto fuori le macchine allora metto a posto anche la parte interna, come ho fatto per la parte esterna, la parte di fuori, dai, di davanti diciamo, e allora diventa tutto ufficio e non si può vedere più. Ho capito. Vabbè, meglio così, dai. Comunque va tutto l'impianto elettrico nuovo, pavimenti, tutto, i muri, tutto è fatto. E se lo vedi non lo riconosci il magazzino, non lo riconosci. Tutto pavimento nuovo, soglie nuove, la porta ristrutturata, tutto quanto, l'impianto elettrico nuovo, tutto incassato. E allora così fa il vento, è un ufficio spazio in ufficio, adesso mi è rimasta la parte di dentro, però dentro mi viene male a lavorare perché ci sono le macchine, c'è tutta l'attrezzatura, la tipo legnameria, insomma. Però diciamo che un pezzo alla volta, una parete per volta, già me la faccio lo stesso. Solo che tutte le volte mi spiega la macchina, peso 8 quintali, no, non so se vi spiego, ci vuole anche un po' di aiuto per costarlo. E magari poi fare l'intonaco a quella parete, la buca l'hai fatto, devi tornare a portare la parete, mamma mia, è un lavoraccio, non è così semplice. Anche perché c'è poco spazio adesso, capito? Ho capito, beh certo. Ma volendo ti puoi fare qualche lavoretto, sì? Sì, certo. No, in questo periodo, in questo momento sto facendo una cassettiera con 14 cassetti, tre da una parte e tre dall'altra, tutto per l'ufficio di mia figlia. Per cui, già posso fare, sempre quello ho fatto la porta scorrevole, per esempio nell'ufficio ho fatto i finestrini, insomma, già li posso fare, non è che non li posso fare. Ho fatto il tavolino per la fotocopiatrice, ho fatto tutto, già li posso fare, ma te, solo che il lavoro magari di fare che so io, in pochi giorni ci pieghi il doppio, perché devi stare sempre in questa punta, non c'è spazio, di quando devi tagliare la macchina devi mettere una maniera, quel taglio così non lo puoi fare, allora sposta e per cercare di crearti lo spazio, non sai come te lo spiega, non lo vedo più, lo so, devi calcolarti il posto, cioè il metraggio che hai per lavorare, e vabbè, piano piano, da a me non rimani fermo. Magari uno di questi giorni mi faccio un salto, dai, se ci sei, così passa a vederlo. Ehi, vabbè, io di solito ci sono praticamente quasi tutte le mattine, dai, tre fuori di uso, io voglio fare una passeggiata a mano. Per cui no. Però di solito diciamo che la mattina già, bene o male, se non sono lì sono nei paraggi stesso, sono nella zona, per cui non vedo problemi. Al limite se dovesse capitare che non ci sono, che la porta è chiusa, perché la porta è chiusa, no? E all'interno ci sono le veneziane, ci sono, non si vede niente, anche lì non si vede niente. Per cui, e magari sono chiuso anche dentro. E allora cosa succede? Succede che se io sono all'interno e non posso lasciare aperta la porta dell'ufficio, magari non si tengo nemmeno perché ho la macchina attaccata, per dire, no? E allora devo fare uno squillo con il telefonino e magari, oppure sono in zona, addirittura non ci sono, può essere che la strada sia chiusa, ma io sono in zona, capito? Vabbè, non c'è problema, nel caso magari passo, se ci sei bene, sono pazienza, me ne vado, non c'è problema. Se vedo che non rispondi, vuol dire che sei impegnato e niente. Cosa c'è, grazie, cosa c'hai? E tu passa, poni 10 euro sotto la serranda, sei abbassata e poi vai. È vero. Giulio poi già passa, vero Giulio? Sì, mi scrivi una nota, magari anche se puoi un biglietto da 50 va bene lo stesso. Ci scrivi l'orario e sono disponibile a tale ora, magari con 50 euro, se poi sono 100 lo stesso. Il problema è che ci passa sotto la strada, non è un problema. Visto lui, giù. Da domani non ti vedi nei chicozzi, lui. È vero. Giulio, diglielo tu. Già abbiamo sentito, dai, magari adesso in questo momento non può riprendere. L'avrà squillato il telefono. Allora, stamattina sono passato lì, nel circolo di Giuseppe Piruzzo, il circolo Rosito, come si chiama. Non sono entrato, davanti alla vetrina stavo guardando, leggendo quello che c'era scritto, per cui. Già lo conosco quel locale, c'era un bar di una volta. Confermo, c'era un bar, è grande, è abbastanza grande, cavolo. Sì, infatti è grande, certo, gli alunni che vanno, un bel vanno, per cui. Bacchisio, ma ci sei, sì o no? Batti un colpo. Bacchisio si è perso, o è andato in 27, cioè, vedi, se stanno facendo la prova in 27. No, non mi do. Non vedo, ma che mi ci senti? Guardate al microfono. Dove sei, Bacchisio? Adesso ti ho sentito. Sento, dove stavo da... solo che c'avevo il microfono poco fa in mano della 27, dunque ho incalcato quello lì, ho parlato ma non funzionava. Non credo che non funzionava. Oh, vabbè, dai. Andavi. Marino, sei rientrato? Marino è ancora al telefono. Grazie, riprendi tu, dai. Il magazzino dove circola adesso, forse ha giocato qualche passeggiata a me. Qualche passeggiata dai fatto? Boh, non lo so più. Grazie, non è caduto dalla cadria, non ripigliato. Al telefono che ha squillato. Ah, squillato, ah, e allora ma che non rispondi? La musica di Biasi. Noni, era mia cognata e mi ha chiamato. E lo sto parlando a Paoletta al telefono. Ah, ho capito, va bene, dai. Ma adesso bene mi stai ascoltando, grazie. Ho ancora frusciato solo. No, ti sento bene, ti sento. Anzi, vanno a approfittare, sarà, dai, di un qualcosa. Ti mangio anche un Paoletta. Vabbè, ciao Giulio, ciao Marino, ciao Luca, ciao Gian Maria, ciao a chi c'è anche in ascolto. Allora, riprenditela, Giulio. Ok, ciao, grazie, ciao. Ci sentiamo allora, dai. Andà bene. Riprendi, Luca. Sì, ciao, grazie, dai. Salutoni. Allora. Dai, nel caso mi faccio un salto. Ciao Marco. Sicuramente sarà l'ascolto. Ciao. Ciao ciao. Ok, ciao a tutti e due, dai, ci sentiamo. Ciao Luca, ciao Graziano. Avanti Bacchi, per salutare Graziano e Luca. Ciao Luca, buona serata, buona cena. Ciao Graziano, salutissimi anche per te. E saluto la signora. A domani se coincide ci sentiamo ancora. Capito, hai Giulio, dove scendi? Col magazzino, qualche passeggiata l'ho fatta per 7 anni. Lo so, Bacchi. E mi faceva piacere quando venivi ogni tanto a farmi una piccola visitina, ma adesso assiduo non ci sono più lì, per cui intanto la sera non ci sono mai. E dunque, ma la mattina ci posso anche essere, un'ora, 2 ore, chi lo sa, boh, dipende. Dipende dai giorni, dai. Il giorno che ne hai voglia, no? Ormai non ti obbliga più nessuno a andare per l'ora via. Quando ne hai voglia ci vai, se no te ne vai in giro. E fai bene. Fai bene giù. Tanto la vita è un fumo. E allora, quando non c'è l'arrosto non fuma più. È così, Pacchi. E d'altronde cosa vuoi fare? Adesso, a parte il fatto che non ho sempre cose da fare, ma anzi devo dire che quando non ho niente da fare qualche cosa me la invento sempre così, proprio per trascorrere il tempo, non è per altro, non per necessità certamente, ma più che altro per trascorrere il tempo. Ripeto, adesso in questo periodo, in questi giorni, ho già iniziato una cassettiera, per cui... E domani ad esempio voglio dare un altro colpettino e così via, dai. Così poi se ne riparlerà la prossima settimana, perché di sabato non faccio niente, sabato sono impegnato con la spesa, un sacco di cose. Anche perché devo comprare l'acqua, se no la spesa l'avrebbe fatta mia moglie, no? Ma siccome ci sono le confezioni dell'acqua e sono pesanti, e dai, le donne sono deboli e no. E queste cose non ve la fate la pigliate. E allora, soltanto vale, allora la faccio io. Faccio la lista, mi fa la lista di quello che occorre e vado e compro io, capito? Così almeno faccio un carico unico, sia per le cose dell'acqua, perché ne prendo sempre anche 5 confezioni, devo immaginare, se non adeguo la macchina non lo puoi fare, no, a regalire, ci vuole un po' di sacrificio, dai. Infatti, bisogna andare con la macchina. E purtroppo così, bisogna comprare. Vediamo Marino se è anche fatto. Marino! Marino al telefono, dai, così. Sì, beh certo, e poi adesso in questa stagione poi c'è anche il discorso del pellet, magari una lì devo pigliare un pellet, la lì devo pigliare con l'acqua, E allora, cosa fai? E poi, ho il tempo, cosa faccio? Bisogna anche dare una mano a casa, no? Non ho fatto tutto nel biglietto, anch'io dovrò fare qualche cosa, almeno se non altro quelle cose lì, le faccio io, no? Infatti, esce anche il bene, perché tutte le cose non ha tutto, l'inverno c'è tutto da fare. Ma il bene però, dove stai a prendere? È vicino alla te. Non è tratto? Chi è, avanti? Sì, sono io, Giulio, mi sono spostato, che era scattato il contattore, dunque mi tocca uscire fuori. Ok, ma chi, quando vuoi fare la prova, però ce la facciamo, eh. Io a Luca ogni tanto mi sparisce, lo sento a tratti, non lo so. O si sta muovendo, non lo so, eh. Avanti, ma chi? Sì, avanti, non la facciamo questa prova. Aspetta che adesso faccio il 27. Ok, scusate, due minuti, dai, avanti giù. Ok, no, sono rimasto solo, sono andato e passo anche io il 27, dai. Ok, benissimo.